Io mi auguro che anche oggi siate venuti in chiesa con un desiderio. Sentiamo che cosa ha oggi da insegnarci il Vangelo. Dobbiamo avere questo desiderio. È per tutto. È il primo principio con cui si può imparare. Se un ragazzo va a scuola così, è a buon punto. E che cosa ha da insegnarci oggi il Vangelo? Beh, sapete che una domenica dopo l'altra la Chiesa ci propone la figura di Gesù affinché noi possiamo conoscerla, ma profondamente, così da aderire a Gesù. Oggi ci propone un secondo miracolo. Domenica scorsa il primo miracolo, quello di Cana. Oggi un secondo miracolo, come battuta dovremmo dire, dopo il vino, il pane. E infatti, la moltiplicazione dei pani. Perché il Signore tutto quello che dice e tutto quello che fa è un insegnamento. Dalle parabole, ai discorsi, ai miracoli, alla sua stessa vita, il morire e il risorgere. Noi dobbiamo proprio accostarci a Gesù e dire: vediamo di imparare la nostra fede in te, il nostro amore in te. I miracoli hanno sempre un duplice livello di lettura. Il primo è lo sguardo misericordioso di Gesù sulle persone che si trova davanti. Che sia un sordo muto, che sia una mamma che sta facendo il funerale del suo bambino a Nain, che sia un cieco, che sia due sposi in difficoltà perché viene a mancare al pranzo il vino, Gesù vuole sempre andare incontro ad aiutare. Poi però c'è un secondo livello, il significato di questo, perché non è che Gesù guarisce tutti i sordomuti, risuscita tutti i morti, va a tutti i pranzi di nozze, lo dà come segno. Tant'è vero che il Vangelo di San Giovanni non usa la parola miracoli, usa proprio la parola segni, che alludono a qualcos'altro. E come il miracolo di Cana, oltre ad aiutare le persone in difficoltà, era segno, e lo diceva chiaramente la prima lettura, se la ricordate forse, la lettura di Isaia, è segno del banchetto messianico: quando verrà il Messia ci sarà una grande festa, e tra noi uomini, quando si fa festa, si mette le gambe sotto il tavolo per stare in compagnia, perché il mangiare insieme non è solamente rifocillarci, è anche far festa, stare in compagnia, discutere, condividere. Allora, cambiando l'acqua in vino, Gesù allude a quel banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di bevande prelibate. E oggi, facendo la moltiplicazione dei pani, a che cosa allude? Lo dice molto chiaramente il Vangelo, se leggiamo. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli. Non vi riecheggiano le parole dell'ultima cena? Prese i cinque pani, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, li diede ai discepoli. Sono esattamente le parole dell'ultima cena. Allora Gesù e il suo Vangelo ci dicono: sì, siamo venuti incontro al bisogno di cibo della gente, ma Non dimenticate che questo allude all'Eucaristia. Se ricorderete l'altra grande moltiplicazione, sono due di cui parla il Vangelo, quella che mette in crisi tutta la gente, anche gli apostoli, perché poi Gesù alla fine dice: avete mangiato? Bene, questo è il mio corpo, questa è la mia carne. E la gente non capisce, e Pietro stesso va in difficoltà e dice: Signore, le tue parole sono troppo difficili, sono troppo dure, sono impossibili, però io mi fido di te, tu solo hai parole di vita eterna, e continua a restare con Gesù e a seguirlo. Allora, cari cristiani, noi dovremmo, qui a Messa, sentire che cosa ha da dirci Gesù, per poi tornare fuori e viverlo. Perché a scuola si va per imparare le tabelline, per imparare le operazioni del più, del meno, del diviso, però poi bisogna andare a casa e applicarle. Altrimenti, se uno ascolta e non le mette in pratica, non gli serve a nulla. E allora dovremmo andare a casa da oggi dicendo: ecco, il venire alla messa, il mangiare del corpo di Cristo è quello che dobbiamo fare. Ma anche fare la comunione, mangiare di questo pane miracoloso. E se in questo pane meraviglioso, celeste, c'è il corpo di Cristo, noi dovremmo passare qualche volta in chiesa a fare una visita a Gesù presente nel tabernacolo. E se la nostra comunità ci chiama ad adorare Gesù solennemente presente ed esposto sull'altare, noi dovremmo sentire questa fame, cari cristiani. Questo è un primo insegnamento che deriva dal miracolo di oggi, ma ce n'è un altro molto chiaro: la nostra partecipazione accanto a Gesù. Gesù dice: date loro da mangiare. Signore, è impossibile per noi, 5.000 persone. Sì, c'è uno che ha portato il pranzo al sacco, c'ha 5 pani e 2 pesci nello zaino, beh, portatemeli qui. E Gesù, basandosi su questo, opera il miracolo. Grandissimo insegnamento anche questo. Il Signore, che ha fatto tutto senza di noi, oggi non fa niente senza di noi. È un grande insegnamento questo, lo sanno bene tutti i maestri, tutti i genitori, che pur essendo loro capaci di fare da soli qualcosa per insegnare ai loro alunni, ai loro figli, li invitano: su, dai, coraggio, prova, vedi, ti aiuto io. Questo è dentro nella natura nostra. Non è successo così anche in questa pandemia? Certo, l'autorità pubblica si è mossa per cercare di aiutare quelli che non potevano uscire di casa, portargli la spesa e così, ma quanto volontariato c'è stato. Quante persone spontaneamente si sono sbilanciate loro a fare questo. Una società cresce, senz'altro con l'aiuto dell'autorità, ma non potrebbe crescere bene senza la partecipazione volontaria dei suoi componenti. Coraggio, cari cristiani, non dimentichiamo questi insegnamenti. E anche oggi il nostro essere venuti alla Santa Messa, il nostro aver ascoltato il Vangelo di Gesù, ci manderà a casa più ricchi, ma esistenzialmente, nel nostro spirito e nel nostro essere persone e cittadini.